fai tu qui? Che fai tu qui? Ora tu lascia l'andar del tuo Adamo in casa. Se puoi dica l'entrare, se puoi dica l'entrare, ma non ti mettei fuor, ma non ti mettei fuor. Che fai tu qui? All'uscio dell'Adamo, che fai tu qui del Damo all'uscio? Fate del dì all'inizio al valier, che fai tu qui? Che fai tu qui? Ah! Ma nel sola pere che quando le passa felice notte, povere sempliciotte, alerta la